GR Europa. Preparativi per la trattativa sul budget europeo nella settimana del Parlamento di Bruxelles e Strasburgo che si avvia verso una nuova sessione plenaria. Giovedì il presidente maliano Traoré affronta i temi nella crisi del Sahel con i membri della Commissione Affari Esteri, Difesa e Sviluppo del Parlamento. I gruppi politici intanto preparano il dossier della supervisione bancaria e quello dei paradisi fiscali. Questi saranno al cuore del vertice UE che farà appunto il quadro del tema evasione fiscale e politica energetica. Sembra che i governi o i loro rappresentanti, 4 anni dopo l'entrata in vigore, non si siano accorti che il Trattato di Lisbona sta cambiando il ruolo del Parlamento europeo. Il commento di un diplomatico rende l'idea di che cosa stia lentamente accadendo negli equilibri di potere a Bruxelles e con Bruxelles, con l'Eurocamera che dopo essere stata investita del potere di codecisione su praticamente tutti i dossier tende ad imporre la sua linea ai governi. Dopo aver cominciato ad alzare la testa già nel 2011, l'Eurocamera ha aumentato la sua pressione sotto la guida del socialdemocratico tedesco Martin Schulz, un fenomeno ora osservato con sorpresa e interesse dalla stampa anglosassone, a cominciare dal Financial Times. Secondo il primo ministro britannico David Cameron, lo status quo dell'UE oggi è inaccettabile e va cambiato. Lo ha detto durante un viaggio negli Stati Uniti, mentre in Gran Bretagna è in furia il dibattito sull'Europa. A seguito di una dichiarazione, i due ministri che hanno affermato che se si tenesse oggi un referendum voterebbero per l'uscita di Londra dall'Unione Europea. La Commissione europea si aspetta in brevissimo tempo e al più tardi entro la settimana i risultati delle indagini sui sospetti ebrogli e frodi che sarebbero stati commessi durante le elezioni in Bulgaria del fine settimana, in particolare con la stampa di migliaia di schede elettorali false. Infine, la Commissione europea deve rivedere urgentemente la legislazione comunitaria in materia di aiuti di Stato, introducendo norme che permettano di salvare le aziende in difficoltà, in particolare l'ACC di Mel Abelluno, un'azienda leader della produzione di compressori. È quanto chiede stamattina l'eurodeputata della Lega Nord, Mara Bizzotto, in una interrogazione parlamentare appunto al Parlamento europeo. E con questo abbiamo concluso l'appuntamento con GR Europa, domani poco dopo le 15. GR Europa è sostenuto dal Parlamento europeo. Info su radio24.it.